Fighting at test 1-2. Fighting at test 1. Quando eri in campagna, ma che è lo stesso. Ma sapessi cosa è successo qua con mio padrone in casa, ma te lo spiego un altro momento. Io non ce l'ho fatta, non c'ho tempo più di cagare, di ascolta l'ultimo momento, no? Poi quando devi partire, siccome devo partire, no? Il 21. Tutto all'ultimo momento, ma non riesco neanche a prepararmi la roba più. Purtroppo è un casino. Ma dove? Partire per dove? Sempre fuori? Sì, devo andare giù a Sermiola del Garda e poi rientro il 20, il 6 di luglio e poi il 20 mi parto a Palone. Cioè, praticamente fai tutta l'estate fuori. Tony, c'è la biglia in culo, dove vuoi? Tanto io non ci volevo andare. Mi hanno fatto il biglietto, sali, che cazzo vuoi? Oramai il biglietto è già fatto. Vabbè. Ando bene, meda. Vabbè, la piglia in culo. Ma ci ho affrontato la pizza. Prima che ho adesso, la piglia in culo. Ma sale in macchina? Cosa? Se sale in macchina. Cava di positivo, a Torone sì. No, a coso. Lascio la macchina Olbia all'aeroporto. Poi rientro e prendo la macchina. La lascio all'aeroporto, la macchina da metà. Devo stare lì a cercare il parcheggio. Vabbè. Andò bene, vabbè. Che lo dico. Non me ne faccio, me l'hai tu già ritorno. Cosa? Lavoro per la tettoia, la veranda, non me ne fa. No, lui ha detto sì, fino a settembre non mi paghi niente, niente affitto e ti metti su da parte e ti cerco un'altra casa. La sera giacco, ho fatto un giro di conti, tutti i soldi che ho a conti, ho detto, che ho fatto un giro di conti, che ho segnato tutte le volte e trovato i soldi. Tu mi devi tornare a me praticamente 1150 euro e poi ne parliamo. Per carità, non è ricordo che mi sono e mi ha lasciato un po' di e non ho mai fatto. Allora, io dice facciamo il contratto, sì, prima di fare la tettoia e poi facciamo il contratto. Visto che io picchio sempre lì, allora poi dice che mi manda la sorella a questa casa, adesso non più mi manda la sorella, e automaticamente me ne devo andare a cercare casa, con un gacchio venendo di Roma. Allora te lo dico io, domani vado dalla PMG a letto. Però sai cosa vuoi? Simone, sono dal 2010 qua, non me ne ha fatti nulla, quindi ho tutto segnato i soldi che le ho dato, in tutto avanzava 2450 e tu ho dato 3500, non me ne frega niente, tu mi dovrei dire, e con questo, poi vediamo con che mi cerca la casa, se la trova bene, se no te la vediamo, se no me la cerca lui. Minio, lui deve aiutare il deve sistemare, a parte con la tettoia qui, ho preso la decisione, ho detto togliermi la tettoia perché le termiti sono cancerogene, quindi a me mi sta facendo male. Se io chiamo i vigili urbani, lui te la lanci tu, non me ne ha fatto nulla. Mi ha visto deciso, incontrato, allora adesso ha deciso di non farmi pagare l'affitto per 3 mesi e ti cerchi casa a Marco. Ok, d'accordo, vai, saluto mia regia, ci sentiamo. Ciao Franco, ciao. Attenzione, canale 10, chi c'è? Attenzione, Natalino, canale 10. Leone 10, c'è qualcuno? Attention, attention. chioschi, così ragazzi, se succede qualcosa si butta la pericola per quanto più a dire. Tanto ne abbiamo due, tre di questi apparecchi, non ne facciamo niente. Ma è vero, non se ne fa proprio niente, ha detto bene, non se ne fa niente. Perché dal circuito e poi con dei cani flash, e se vuoi che usiamo così, ci facciamo una bagaglia a così, e lei ferma come se très large, e ben on reçoit aussi plus de spectateurs. T'es là, Manu? J'ai entendu salut, mais j'ai reconnu son salut. Non, que je vois où j'en suis là. 1-2-1-2, voilà, voilà. Eh ben, on va passer le micro avec votre permission à notre ami Philippe. Voilà, s'il arrive à nous entendre. Philippe, les bonnes habitudes du soir, je suis avec Manu et puis. HB23, non, non lo conosco io quello. Io ho un Sommercamp 23 canali della piccola canale del 1983. Io ho avuto vabbè, di tanti di toccare, però veramente sì, io ho cominciato con toccare, ora ci sono un minimo, io non vedo niente, credo che possano dire ciò. Sinon, il dit, on peut rester là pour faire notre film. Et avec, votre notaire de fréquence. Adesso ti faccio sentire il Sommercamp che ho io qua, che è Formula 1, anche perché non lo stavo neanche utilizzando. Adesso metto l'antenna e te lo faccio sentire, il vecchio Sommercamp, questo vecchiotto. Aspetta Bruno, mi senti? Sì, sì, va bene, un po' più, va bene, un po' più. E questo è il vecchio Sommercamp, quello che sto dicendo. Come se gli avessi dato la come ce la fanno normale? No, va bene. Va bene, va bene. Questo apparecchio non ha lo smettere con l'ago, c'è anche tutto il letto che non servono a niente. Allora questo qua c'ha lo smitter piccolino, capito? C'ha lo stesso lo smitter che praticamente, non so se l'hai conosciuto, il vecchio portatile 504 della Tokai, c'ha lo stesso smitter di quello, piccolino così, capito? Funziona perché non lo stavo mai usando questo software. Comunque va bene. Ma è Vabbè, questo è il suo microfono. Il microfono suo esce direttamente dalla radio qua. Devi tagliare perché il filo esce da dentro, è all'interno, capito? Del microfono. Avate il becco. Ehi, buonasera a tutti, doppio rumbo. Ciao già, buonasera. Sto usando il vecchio Sommercamp. A vedere come sta andando. Va bene, Fra. Ti ascolto bene. Ma poi quello valvolare? No, negativo, quello veicolare 23 canali della Sommercamp. Capito? Scatta perché pesa la radio. È piccola ma pesa un trono, qua. Faccio un blocchetto, allucinante. Vabbè, ma qua ce n'è di roba dentro, Non è come questi baracchini che fate una va, Bruchi, non si viene a nulla. Radio chiara e forte. Questi baracchini che fanno adesso mica sono così, Quando ce l'avevo sempre fermo già, non lo stavo neanche usando. Secondo me questo con l'amplificatore funziona bene, Questo qua c'ha 11 alfa, 22 alfa. Mi avevano quei mezzi canali. Beh già, io che non ti sentivo, come mai? Non mi sentivi dopo. Comunque va bene questa apparecchio, dai. Andare, dai, almeno lo faccio andare un po'. Bene che bene, Fra, va bene di radio presente, forte. Sì, vabbè, vecchiotto. Lo devo provare con l'amplificatore questo qua, forse con l'amplificatore questo va bene. Quanti watt ha questo? Dovrebbe essere 5 watt. Prima erano 5 di solito. Quelli 23 canali erano proprio 5 watt precisi. Ma saranno 5 watt questo qua. Vabbè, la radio è normale. Comunque già va, l'importante è che vada bene, dai. Secondo me l'hai tolto fuori questo apparecchio. È tolto fuori, comparato, tolto fuori, 70 euro questo apparecchio mi è costato. Già non me ne voleva neanche dare. Ah, te l'hai comprato adesso? No, pensavo che l'avessi a casa. No, l'ho preso da un amico. Un amico del Tempio, che lui c'ha un po' di questi apparecchi antichi, capito? Ne ho un altro anche da 6 canali. Ma gliel'ha detta quella cosa lì? Faccio tu. Sì, gliel'ha detta, ma io non va di là, ora va per lì. Lo sai quando domandi la gente la vuole gratis la roba, capito già? No, gratis non è dopo. Ma danno gratis, già li stavo scontando a 50 euro. Guarda, se senti qualcuno che vuole, c'ho due turbo 2001, una con la magnetica e una nuova mai usata. Me ne sto dando due. Scappa, lo sai quante ne va, te ne va, te ne va una, due, 3, 4, 5, 6, 7 ne ho antenne di macchina. C'ho due TCL 800, poi c'ho 4 fruste nere, e dopo cosa va? Dopo ne ho ancora un'altra, non so che marca sia neanche. E ora me ne posso già. Ma, per carità. La potevi dare quella che ti ho chiesto, avrei buccato il tettuccio della macchina se mi avvisato quella nera, ma forse ho fatto bene a non buccarlo. Perché scusa, allora ho messo la voce l'antenna della radio, non ho buccato niente. E l'antenna della radio ti ributta? la torna della radio, giù va, tu fila te la giù posso sottare a capo. E non si prende nulla. E domani, pigliava tutti i bassi, capito? Quanto è lunga la capotta all'interno, gli ho fatto tutta l'antenna della radio, voglio che prende. Anche sotto le gallerie, pigliava, sante. Vabbè. Sono di gente che l'ha fatto, però a me avevano consigliato di mettere di qui l'antenna e il portambolo dell'azienda, solo che adesso i muri non si usano più a mettere il bollo davanti, capito? Vabbè, oggi posso chissà già, io ho fatto quel lavoro lì. Poi qua c'è un pulsante che non ho capito cosa ci sia, c'è scritto CAL, vediamo un po'. CAL è la portata. Ma funziona? Sì. Fuggi carino, va, avete le toccaie. C'ha lo stesso colore del toccaio con Pirco. È nuovo, nuovo, nuovo, nuovo. Non so se vuol dire nuovo, che non c'è neanche un graffio, minchia. Nuovo. Sono apparecchi di altri tempi, dai. Però quegli apparecchi lì hanno una cosa, c'hanno quello spinotto strano che te ne esce, quando tiri ti esce lo spinotto. Con la ghiera. Questo qua non ne ha nessun spinotto perché il cavo del microfono esce direttamente dalla radio, capito? Non ne ha spinotti questo. Il microfono esce col filo direttamente dall'interno della radio, quindi i microfoni no, non li puoi punire. O lo devi tagliare e metterci lo spinotto. Ma io lo lascio così che non lo voglio rovinare. Capito? No, ma esce bene, fra. È come se fosse amplificata, la radio è forte, bella. È il microfono originale suo, hai capito? Cioè, faccio la... tiro il microfono, la rovino, rovino l'estetica, capito? Lascio così. Capito, va di brutto. Ehi, avanti lui. Non mi sente nessuno, vabbè, dai, sto facendo. Poi pulisci. Avanti Bruno, dai. Era Luca che stava facendo la battutina. E dove sei? Nel parcheggio delle queste. Ehi, sì, sulla sala di uscita. Ho capito. No, io mi metto pure al parcheggio delle querce. Devi facevo 10, ho fatto 10 con l'Inghilterra da avanti. Dimostrabile, c'è la cartolina. Avanti, fra tu sì. Sta uscendo male. Franco. Eia! Tu sei Tonino, sei Franco. Ciao Tonino. Ciao. Chi è che sta uscendo male? Franco, siete tu. Non lo so se è lui, se tipo la pernacca. Eia. Non è abbassato. Ecco se mi ha detto, ammassato così va bene. Ciao Bruno. A me mi piace perché mi va a 100. Franco! Quello c'è sempre col volume abbassando, alzando, abbassa il suo microfono qua. No, più basso di così non si può. Ma cosa non si può? Quando parli tu devo abbassare, quando parli da Bruno devo alzare. Dai, ho abbassato un quarto, va bene. Adesso già bambino. Avanti, fra. Ha fatto che ci sia qualche cosa, passo di l'apparecchio. Messi ti ha Si ha comprato da poco, l'uovo nuovo, la tocchera. Sì, ma se lui mette un 20 watt, se usciva 20 watt il baracchino avrà bruciato la finale, È un sommer, fatto di quelli vecchi era, tipo tocca 5024. Beh, non dovrebbe bruciare un c'è 4-5 watt, va bene per delineare. L'ha bruciato. Poi io alzo un po' il volume per Bruno, se uno lo sente. Anche però il P7 che Bruno è a sassa, il P7 è qua. Bruno. Non rispondersi a forza di Bruno, ci lascia riprendere. È troppo forte. Addirittura. Ma... allora, secondo me, o ti sei messo sotto accento, oppure non lo so cosa è successo. Ma sei per più. Bevo caffè Fourmont la mattina, poi bevo accento e quindi automaticamente mi presenti un pochettino meglio. Sono compagnaggiato, no, che mi ha messo con l'urgente, c'è un sole, poco so parlare, bruisce. E caldo sta facendo, un casino sto tempo. Gianni, e tu? Non sei uscito? No, è scostato. Perché? Perché ci sono in fazenda lì. Ah, non ci sono? E io. Ma tu ci vai? Io sì. Bruno, tu ci vai? Il vento aussi, si Robert Bureau là, il s'agit de bonne soirée aussi, y'a pas de problème. Ma dimmi una cosa, Bruno, sei coricato? Sei così, calmo calmo parlando, se avevo un mezzo dormito. Ma non c'è sole, sono come urgente. No, Tony, questo microfono non mi senti? Non metto il microfono come Dio comanda, ga. Gianni, li hanno bene quei palmari buoni, forti, ga. Gianni, pensaci tu. Gianni. Basta che sta attaccando delle armi, che ancora non basta. Al tuo momento. Attenzione, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni. Senza mamma gli è venuto malumore perché ho detto che sei il più forte, tu mi. Vai, è la più forte, non c'è. Cazzato, c'è, tu chi è? Chi è incazzato? Non sono incazzato niente. Ti sto dimostrando che non è più forte. È aumentato, lo aumento anch'io, vedi, tu aumenti la radio, aumento anch'io. Vediamo chi spinge di più. Proviamo, vai. Aiuto, prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Bruno. 1, 2, 3, 4, 5, chi passa? Chi passa, Bruno? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. No, non è il segnale non mi interessa. La modulazione, la radio, chi è più forte? Dai, 1, 2, 3, prova di modulazione. Cambio basso. Però, Tony, tu sei forte, molto forte, questo vicino. Ma comunque non passa lo stesso. Chi non passa? Gianni, nonostante sia più vicino. Sono molto forte. Allora Gianni, come raggio la via è più forte, dai. Cicca, cicca, cicca, bum, bum, bum. Ah, era anche minima potenza, Bruno, scusami, aspetta. Perché questa lembra? Sono massima potenza, con baracchino. Vediamo un po', 1, 2, 3, avanti Gianni. E adesso parlo anche un po' di tua manettone, vogliamo un po' sul capito. Ci batte, lui. Appena dove si sta passando, no? Perché ha attaccato qualche cosa, quello io, una scalzone, mi sono lì. No, non mi ha cazzo niente, tu mi giuro. Guarda che segnale che io lo conosco il tuo, RFD abbassato, sì, Santiago 9. Caso strano 6-9-10. Gianni, stacca. Sono con il Cobra. No, lungo che sei molto in campo tu. Vai, che non mi butti a me. Vabbè, buona ragione. Te lo faccio vedere, aspetta che se lo filmo mentre parlo. Aspetta, 100 watt il Cobra ti dà? Ti dà 100 watt il Cobra? A me mi dà 10 watt che sto cazzo il baracchino, non mi dà più. Dai, e quello è truccato il baracchino, lo sai, non ti dà di più. È truccato? Ma stai scherzando, già che ho fatto col wattometro. E più 10 watt non dà, così si 4 watt e 10 watt, non di più, di Galaxy. Altri sono da 20. Ma cosa si dice? Al tuo da 20 e penso a poco, no, io ho tutto ormai. Se dici che è una radio forte, quello sì perché conosco il microfono, cos'è, tutto qua. Avanti Bruno. Truccato, 125 la fa. È super spinge. Oggi mi metto di mano molto, e poi, Bruno, sta sempre innamorato con il microfono, quello lo porti qua al microfono, adimiazia. Comunque Bruno è Bonifugo, sta cercando di farci ingelosire uno con l'altro. No, io proprio il baracchino, già se pensi così non mi conosci bene, a me il baracchino non me la fotti brutta in nulla. Tony, vai dammi così arrivi troppo pari a che ne hai passato. Dai Davide, scusa, no, non posso portare. Ma cosa? Io so che esco bene, quindi non ho problemi. Beh, per la posizione che c'è, te l'ho sempre detto Gianni, l'avrei avuta io, avevo la posizione. Allora sì che dominavo. Siccome sono in campagna, in una zona anche precaria, l'antenna è piazzata in terra, fate il conto. Cosa vuoi di più? Anzi, sto scendo troppo bene per le condizioni in cui sono. Perché Luca, ma ne come mi ha visto come la terra mia, e anche Franco. Buona buona la mia. Mi avevo preso tutto di per me, siamo passati di quel caso. A voi da lì si chiede una bomba. Purtroppo adesso io sono in queste condizioni, poi comunque se trovo di meglio che vado via da qua. Mi auguro che non capiterò un palazzo all'ultimo piano, con l'ascensore, così metto l'antenna e poi dovrà. Boh, sto continuando a non capire nulla. Cioè, a me non mi capisci? Troppo alto sei tu lì, troppo alto. Quando l'alzi non si ricupera di niente. Gianni, sono a un quarto, proprio a minimo, minimo, minimo. E allora parla piano, sarai tu che sei macchinetta, proprio bene. Tu mi ascolti a 78 giri. Cavagale. Chi c'era? Franco anche, Franco! Franco ha bruciato tutto. Non l'avete dimenticato? No, sto facendo una cosa, allora riprendo subito. Ciao Tony, buonasera. Ciao, come ti è successo la palazzo che stava tutto spammacchiato? Ma il mio? Ehi. Non ha giocato nulla da parecchio. Non ero io. Abbiamo pensato che le attaccate lineare che deve fatto partire qualcosa, perché faccia pru pru pru pru pru. No, non è attaccato lineare, sto uscendo liscio con quel Summercamp. Adesso sei buono, perché prima era tutto saturo, infatti. Ma mio sito era portante, è tutto... No, perché questo c'ha anche il coso, il cicalino qua, come il toccai. E il toccai ce l'ha un bel forte, te lo dico che Tony guarda dove devi rapportare col toccai. Bruno, ripeti. Secondo me Franco ha visto i segnali, si è vergognato, si è ritirato. E chi ci vuole da cagliaria? Ha detto, aio, sembra uno di Cagliari. E a Battamona non ci sei sceso Bru. C'è uno del Verona di Cagliari. Sì, partito. Ma ci troviamo preso. No, questo è che deve tornare, se l'ha vero, eh? No, sono proprio da Verona, mi sono proprio da Verona. Verona adesso mi sembra. Mi sembra per ognosta. E che portate? Io già lo metto qua, adesso l'ho posto. Sto parlando da Verona, ho fatto militare a casa. Che sta parlando da Verona? Ui ui ui, e tu sei tutto quanto caghi nero. Comunque la portantina mi toglie il corrente, grazie. A te. Non mi credi che sto parlando da Verona? Amico lì, adesso. Come sta cercando di portare solo da lui? Comunque ha registrato la portata, eh? Sì, che può segnare. Ascolta anche tu, sei battezzato. E poi quel rumore di ferraglia che c'è sotto. Ma non è, mi pare un... Gianni. Ciao, 9.30 qui da me. Gianni. Eia. Guarda questa com'è la radio, va bene? Sì, perfetta. Ma che questa va bene? Ok, dai, ce l'avevo spenta. Questo è un altro Summercamp. E da vedere il biliardo? Ne ho due, ne ho. Uguali. Ma dove è portante? Via, l'altura. 9.30, sì, da me, 9.30 la portante. Ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao. E vabbè, a me non mi arriva 9.30, però, ripeto, a me non mi fa seduta, mi torni il QRM. Ciao Giulio. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Giù. Ciao Bruno, ciao Franco. Ciao, poi che c'era Tonino e Gianni. Gianni, guarda che stai dando un'informazione sbagliata, ho sentito male io. Tu hai detto che stanotte ci sono in azienda qua ai punti. No, sono domani, Gianni. È venerdì. Perché domani cos'è? Venerdì? E oggi giovedì, venerdì, sabato, domenica già. E io ero convinto che fosse venerdì, capo. Sì, sì, allora hai ragione, giusto. Sono convinto che fosse venerdì oggi. Marco Mari, Marco Mari, tu sei come una persona che la mattina le do il buongiorno e buon venerdì e poi manda buon giovedì, Marino. Domani c'è la sua entrata di vespa, è prima del complesso. Comunque la portata è coprita un po' Giulio, Mico, mi copre a me, mi copre la portante? Sì, a te ti copre. E qui sarebbe facile, deve essere, perché il 9.30 qua. No, avrà qualche cosettina sotto, perché se siete rumore di ventola e di ferraglia. Caragara, Giulio, mi ascolti qua, il nord della Sardegna che chiama Brico. Il tuo segnale è inconfondibile. Mi ascoltate a questa modulazione, capa capa e capa capa. Attento, attento, Milano dici, allontanarci dalla linea gialla. Gianni. Finita nella verifica. Radio 2, e cosa è successo già? Mi l'ho passato. Se vuoi te l'aumento, va bene così. E adesso ti sento, insomma, discretamente, meno male. No, a me non mi dà fastidio, se vuoi aumento anch'io. Così a metà, sul bocamanettone questo qua spara forte. Questo è un nuovo microfono che ho scoperto. Che veramente ha scoperto Marco Condor. Aspetta, Giulio ci sì. Certo che ci sono, Tony. Dai, che Gianni c'è, che lui c'ha la radio, è la più potente che c'è. Dai un controllo di radio a lui e a me questo passaggio 1, 2, 3, prova di modulazione. No, aspetta Gianni. No, Fede, non voglio il segnale che tu sei in zona alta, io sono pio pio per terra l'antenna. La radio, dico soltanto la radio, in questo passaggio, 1, 2, 3. La radio è più forte la tua, il segnale è più forte di Gianni. Ma io lo sapevo, perché detto, lui è un palazzone, io sono pietato in terra, Giulio. Ma io non ho detto niente, se la vita vuoi, io non ho detto che la radio è più forte, stavo solo fesserie, Tolino. Io ho detto solo che anche questa è la radio, se lui l'ha detto l'aumento, ma non è che è forte come quella. Lui c'ha il microfono che è buono. Gianni, sta uscendo male? Non è una radio perfetta pulita, lo posso confermare anche gli altri. Poi qua c'è un testimone, c'è Bruno. Bruno all'appello, avanti. No, Gianni è successo qualcosa, perché arriva basso su, tu sei troppo forte. Gianni sta arrivando a Santiago 2, qua. Oh, c'è la radio tutta distorta, Gianni, abbassa a parte gli scherzi. Aspetta, che abbasso, ho alzato troppo il microfono, deve essere, guarda. Adesso va bene, sei tu. Santiago 2, fra, ma aggassati se ti zendi. Qui non mi va a toccare la roba, a voi non è così. Fai da bravo, che se poi mi fa toccare, a fare, grazie, mi viene la paranoia. Ah, sta arrivando 9.30 qua. Radio 5, va bene. Adesso sì che va bene già. Ehi, perché è troppo forte poi strappa, va a strappare. Va bene, dai. Ma non mi interessa, interessate sentirci. Da voi, se non sei abburuttoso come ti sei duro, me ne ha fottiruta. Io non sono abburuttoso. Giulio, cosa sono abburuttoso? No, assolutamente no, io ti sento bene, per cui non ho... Sì, forse lui intende perché parli svelto tu, sarà per quello che lui la pensa in quel modo, è così Gianni? Sì, quando è troppo forte, poi lui già parla in fretta come una macchinetta, e non si ricomprende nulla, se è troppo forte non si capisce, se la abbassa un po' e parla piano si capisce bene, ma quando è troppo forte è un una Macedonia. Sei tu che mi ascolti a 78 giri. Ma io lo sento bene ugualmente, ma naturalmente tra me e lui c'è un'altra distanza, per cui tra te e lui chiaramente essendo vicino sarà per quello che magari tu senti magari un pochino male tra virgolette chiaramente, perché la radio è bellissima, è bella, chiara, squillante, di uso. Poi il fatto che lui parli veloce, vabbè, quello è un dono di natura intanto, no? È come quello che fa la trasmissione alla televisione la sera, utilizziamo, che quello lì è il Guinness dei primati per la velocità nel parlare. Come ti chiama questo presentatore che presenta la sera quel giorno? Bononis. Ciao Paolo Bononis. Bononis, sì. Antonio, mi puoi fare concorrenza se vuoi. Guarda, per dire veloce, in sassarese, quando ho fame, sete e sonno, mangio, bevo e dormo, non ho più fame né sete né sonno. In sassarese, veloce, quando ho fame, sete e sonno, mangio, mica troppo, non mangio più fame né sete né sonno. Me ne sono andato. Ehi, a voglia. E vabbè, è lo scel di lingua veloce, quello, non è facile, parlare velocemente in maniera chiara, la verità, questo bisogna riconoscerlo. Va bene, dai, avanti già. Ehi, ehi, ehi, vabbè, ognuno la sua di radio si tiene quella che c'ha. Avanti Franco, poi passa Bruno che è di parchino. Franco, prendesi il caffè. Franco sta attaccando il lineare. Attaccalo anche tu già nel lineare che non ti sento. Non ne ho io il lineare. E chi ne ha mai avuto? Buzzinoso, come fateci la rosa? Esci basso, se tu attacchi il lineare ti sento meglio. Sì. Andale così. Io c'ho l'ugola, che ho questa tonalità di voce. E io posso musicare. Oh, l'amico. Ho perso. Franco ti ha coperto. Come sto uscendo, cambio. Ehi, senti a farci tocchi la mano. Aspetta, Franco, avanti. E guarda un po' come sto uscendo, cambio. Va bene, Fra, va bene, una bella radio. Gianni, non sei passato, è passato Franco. Tony, da te come sto arrivando, cambio. Fondo scala, radio Super 5. K di positivo. Da Giulio non lo so com'è. Tu la stai arrivando, 9 più 20 quasi. E la radio è ultima, veramente bella. Va bene come modulazione, come radio, Giulio. Come di modulazione, te l'ho detto, che bella la radio. È molto bella. K di positivo, ok, dai, sto chiudendo il microfono qua, gli ho cambiato la causa. Ah, ok, va bene. Cosa ci hai messo? Qualche capsula di telefono ci hai messo per caso? Così, per curiosità. Ci ho messo una di quelle capsule di quei telefoni vecchi, di quelli neri. Ah, io ho capito, sì. Vabbè, dai, qualche telefono vecchio, tra virgolette, perché di quelli a tastiera ce l'ho anch'io, ma conservato, perché qua a casa sto usando sempre il Cordex, sto usando, per cui è più comodo, piccolino, e poi me lo porto dove voglio. Mentre invece quello con la tastiera dove per forza spostarti per poter telefonare, eccetera. Va bene comunque. Avanti Tony. Ehi K, ma dicono che la capsula del citofono è un'ottima capsula per il microfono. Ma la migliore è la capsula del caffè. E magari Borbone, no? Borbone, come quello che usiamo noi. Giulio, non ho cambiato, si chiama più Borbone, si chiama Barbone. Borbone. Barbone. Barbone. Oppure crema e gusto. Noi usiamo sempre quelli, quel tipo lì. Oh, vabbè che qua caffè. Qua il caffè se ne fa uno al giorno. Io non ne prendo, ad esempio. Lo prende solo mia moglie, no? Non ne beviamo noi, la verità. Nonostante la macchinetta elettrica, eccetera, eccetera. Io preferisco il latte, la mattina, sempre con la macchinetta elettrica. Per cui faccio veloce, tranquillo e pacifico, non c'è problema. Avanti, Tony. Mica. Dai, vediamo un po' Bruno, se no si addormenta Bruno. Ancora sotto l'albero sei, Bruno? Adesso sto bene, sono sdraiato, sto affacciando in macchina, bene, giusto. Giulio, a me non me ne buca la bocca la mattina, perché il divertimento, l'incantatura che mi prendo quando sto facendo il caffè con la bocca. E non me ne buca, non mi piace la caratteristica. Io poi prendo tanti caffè, primo lo faccio la mattina alle 5 e 5 e mezza, poi ho lasciato mia moglie alle 7 e faccio caffè, alle 10 caffè, poi al bar, tutto il giorno prendo caffè. Tutto è tribolone. Attenzione, canali B, ci ascoltate il doppio rum, cambia. Sempre c'è per il barchino. Oh Bruno, ti sei tombato in radio, ma già ho capito quello che hai detto. Guarda che prendere tutti i caffè fa male. Io mi ricordo, lo sentivo all'ospedale, prendere tutti i caffè fa male alla prostata. Si chiama mai da te. Sì, va bene. Ogni cosa, se stai a guardare a quello tutto fa male. Noi il caffè ne prendiamo molto, mia moglie ci piace il caffè al giorno, perché l'ultimo caffè lo prendiamo a mezzanotte prima di andare a letto, a mezzanotte, a tutte le ore facciamo caffè noi. Però la mocca, non me ne voglio, ne abbiamo due macchinette elettriche, non ne ho mai usato, le ha comprate, non ne voglio vedere. Arrangetevi io la mocca, mi devo incazzare una mocca io. Bruno, mi senti? Mi state tutti quanti sovramodulando, maledetti. Tutti mi state sovramodulando, perché io sono piccolo piccolo. Ah, che già vai già bene, dai, già ti sento bene. Va bene con l'antenna. C'è questo cavolo di continentale, che cavolo è? Oh Giulio, ho messo il mic normale, il suo originale del Galaxy. Come mi senti? In maniera impeccabile, benissimo, benissimo, con la B maiuscola. Va benissimo. E puoi usare anche quello, se a qualcuno dà fastidio perché è troppo forte, e io me ne rendo conto, perché voi essendo più vicini magari ti sentono molto ma molto forte, per quello magari che ti dicono di abbassare un po' eccetera. Con questo vai ottimamente bene, io ti sento benissimo, veramente bene. Capo, questo è il suo originale. Avanti Gianni, non puoi dirmi niente al suo microfono, dai. Adesso la tua voce è come ci vuoi piccare. È veramente pulita la modulazione, limpida, non è abbuttosa, è bella, chiara e anche presente, oltretutto. Così va bene. Non è abbruttosa quello lì, dai, un microfono buono, fedele, buono, forte e basta, tutto qua, capito? No, l'ho cambiato perché a tenere in mano mi dà fastidio, è troppo pesante e lo posso tenere un po', poi basta, ho messo il microfono formale, quello normale su originale perché è leggero, l'altro lo fai fare, capito? Se quando lo faccio modifica al mobile, quando lo devo lasciare così. Bene, bene, Bruno, riprendi. È un casino, Tony, quando parli tu devo abbassare il volume, quando parla Gianni lo devo sollevare. Come mai tu? No, mica si incavola. Io? Tanto non so che sto scherzando, che non è possibile che mi senta basso, perché io mi sto ascoltando, caro mio. C'è il parla ascolta. Tony, il microfono Gianni pare una bentoliera. Collego. Basta un po' quest'ecco, siete, basta un quest'ecco. E appena appena ce ne... Ma noi siamo tutti senza ecco. Ce l'abbiamo l'ecco, l'ecco, non l'ecco. No, meglio senza. Giulio, ripeti. Ok, Tony. Dai, io vi saluto perché ho appena finito la cosa, come si chiama? L'affare per la gola. Se no va a finire che quella che ho fatto stasera non mi vale a niente, dai, che sento già gracchiare, per cui voglio salutarvi, ascolto comunque con piacere e grazie per la chiacchierata a tutti, dai, ho fatto poc'anzi, ho fatto come si chiama quell'affare con la macchinetta, che respiro eccetera eccetera, perché ritengo la mia è un po' garido a classe glose. Vabbè, dai, ciao Tonino, ciao Franco, ciao Bruno, ciao Gianni, io vi ascolto volentieri, dai, perché sento già che sto per sentire qualcosa. Riprendi pure Tonino, vai. Grazie, scusate, mi devo ritirare dalla trasmissione, dai, ciao. Ok, ok, dai Giulio. Sì, la macchietta che dicevi serve l'aerosol, senz'altro lo fai. Ok, senti la partita giustamente. Ok, dai, buon cuore X e buona aerosolata. Ok, Gianni, ripeti. Ehi, allora, ciao Giulio, là, ci sentiamo. Siamo. Stai all'ascolto, ti raccomando, così ti facciamo compagnia. Sì, rimango all'ascolto, beh, certo. Infatti è l'aerosol, però sono già 5, 6, 7 giorni che lo sto facendo, questo. Sembra che stia facendo effetto, però se sforzo un pochino, se parlo più di tanto, sento sempre che ho necessità di interrompere. Dai. Vabbè, dai, chiedo scusa a tutti, ma non devo interrompere per forza, dai. Riprendete pure, riprende fra se ci sia ancora, dai. Buona serata a tutti, ascolto con piacere. Ciao Giulio, non per tipo tutto e te la riascolta le prossime. Riprendi Gianni. Ehi, allora, c'è la Bruno che devo salutare, avanti qua. Ehi, ciao Giulio, stai bene? Se vuoi che la voce ti torni bella nell'aerosol, metti un po' di whisky e vedi che ti passa tutto. Riprendi qua. Questa è la riprendo io. Ok, allora, e la vicino in due, Lì vicino, sì. Sta andando bene qua, comunque, dai. Non ci sono problemi, è ok, vabbè. Io sto pilotando un microfono, una tavola, tutto lì. Vai, Tony. Capo e Rogero, no, qualcuno sta sempre arrivando bene, grazie a Dio. Comunque non so se poco fa, quando ha fatto l'ultimo finalino Giulio, c'era una portante o una ripropagazione, perché me l'ha coperto. Io sento un po' che dice, ai, forse ne effetto. Ciao, sono no, c'è propagazione da fuori in FM con questo canale. Era stata anche io la propagazione, comunque sì, è così. Santa Rossetta arriva qua. 9:20 qua. Cosa avete dica? 9:15, 9:20 qua. Ma vabbè, forse tu sei più aperto lì. Tu sei aperto, non io. Forse sono gli altri due uniti che hanno applicazione. A me pare un russo qua. Aspetta quando parla, non te ne fermo, senti come parla. Guarda te sul cavapù. Gianni, provato hai un FM? Propagazione, Tony. Sì, lo so. Avevo finito una malasuffiera, blu. Arrivo in Forziga. C'è propagazione sotto, c'è capito. Ma è Gianni, ora c'è Mamma Bacchino. Ma tu? Bruno, riprendi. Ah, Gianni è rimasto male perché la mano sta facendo basso. E io ti auguro di uscire in passo come esco io. Quando tu metterai l'antenna uscirai in passo come sono io. Guarda che se Bruno mette l'antenna dove lui adesso, c'è in casa sua, dove abita attualmente, a me spaccherà tutto. Aspetta, io adesso sono sceso da quella zona, sto qui al monte, sto vicino. Fallo. E dimmi quando sei sotto, che poi ci penso io. Ah, se non te la brucio io. Niente, Questo sotto. Niente, brucio tutto qua. Accendila. Ma non vedi come mi smetto da questa brunucchia? Sono vicino alla chiesa solo, No, la chiesa solo, non lo dico. Quella di Domurino? Ho capito. Sì, in zona la meridiana, lì. Sì, sto girando qua. La rotatoria. Adesso chiudo perché, approfitto, chiudo perché sono un po' devo andare in garage, quando vado di sotto non mi è molto buono. adesso si è arrivato, è migliorato un po', vai. Ehi, è interessante che mi senti, dai, dai, se mi senti va bene, anche se arrivo un passo. Non è tanto il segnale, ma chi interessa la radio? Cosa sono fatto? No, possiamo, no, prima del no, la mappa lo vuoi là. Ecco, ecco, ecco. Ah, voi, voi, voi, voi, Bruno, Bruno Uragano. La diarrea, Ehi, ci è tornato a casa, Fioli, sono in Monte Monti, ci sentiamo? Ciao a tutti, ciao Tony. Ciao, ciao Bruno, buon pomeriggio, ci sentiamo, ciao Tony, alle prossime. E Tony, per ripetere, dovremmo due attaggiati. Ehi, stasera non mangia Gianni, per rispetto. Manco l'anticamera, lo sai bito, me ne bacio a me. Gianni, vado a Protolella, si mangia un cannone pieno di cremuzza. Io non ne gioco più mai niente. No, non ne sto più mangiando né gelati né paste, nulla. No, io ho fatto solo peccato veniale poco fa, un bel gelatuccio, un bel cornetto e basta. Ehi, vabbè, vabbè, vabbè. Contento tu? Franco, riprendi. Franco si sposta ogni tanto per il caffè. E Gattuso si rinviglia, poi diventa come Furia, che è il pelo più nero che c'è. Furia. Che giornate brutte, che al sole, comunque mi dovrebbe venire da... Dunque, da domani mi è interessante, se lo batterato, non piove più. Ma io dopo i nuvole, i tuoni, i guida, che tacco, speriamo che abbia smesso di piovere. E così finalmente mi lavo la macchina, sto aspettando che faccia bel tempo per lavarla. Perché tanto è inutile che la lavi, dopo il giorno dopo si mette a piovere, lo stesso giorno. Quindi, stavo aspettando che cambiasse il tempo. Hai messo già il bello, dai. Ehi, non ti gridimi, stamattina c'era, era un po' uggioso, e poi già si è ripreso. Infatti avevo messo brutto da oggi, l'ultimo giorno, poi giovedì e poi venerdì, bello tutta la trazione. Capa gala. Sì, aspetta un attimino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, così va bene, è vero Torino? E adesso è accettabile, dai, ultima. Cava gala, gala. Questo qua è il 3009, va bene. Cappa. Va benissimo, già, ti ascolto bene. Quindi questa capo ce la va bene. A voglia. Va bene, va bene. È presente, è abbastanza buona. E io ho anche quella del Tamer, mi sa che la metto nell'MB più 4, quella del Tamer, andiamo a vedere se va meglio. Franco, scusate, Franco, dove sono fatta una? Cappa, se ce la faccio ci scendo, perché tanto devo scendere a passare con la zona, devo consegnare alcune cosette, capito Bru? Ok, sentiamo, sono pronto a ciao a tutti. Ciao Bru, ciao ciao, ce la riascoltare prossime, vai Tony. Cappa, ciao vediamo Bruno, ci sentiamo, avanti già. Ehi, domenica mi pare che scendo anche io a Plattamona, tanto non c'ho nessuno a casa. Marco sta lavorando, Maurizio deve fare roba e quindi io sono libero. Me ne va la Plattamona a fare un giro. E Bruno ha detto già, domani, non domenica. Io ho detto domenica però, che sono libero, non domani. Capa lui domani, a Franco. Bene, veda, ok, vediamo, chissà, io faccio solo perché domenica, pure un caffettino lì. Ehi, se c'è bella giornata, già va bene, dai. Così ci porta anche il cane e faccio prendere un po' d'aria, capito? E via. Va bene, me la colpa. 7 meno quarto. Aspetta, 8 meno quarto. Bubu, è volato il tempo, cazzo. Che io mi preparo, guardo qualcosa da preparare e mi guardo poi dal giornale. Va bene, dai, ce l'ascoltiamo. Saluto gli amici, sono in ascolto sul canale 10. Ciao Franco, ciao Gianni, alle prossime linee. Ciao ciao, cuore ti bene. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, dai, avanti Fra. Buonasera, dai, riprendo io. Ciao Tonino, buon querettivo, tutto e ce la riascolto alle prossime. Ok, questo è l'altro microfono già, il Tanner più 3 che sto provando. Vabbè, oh Franco, domani ti provo a chiamare per darti quello dello spezzone. Cava di positivo, ok? Ok, d'accordo, ciao ciao. Ciao, buonanotte, buon tutto, dai, buon carica. Te la riascolta le prossime. Già, sto usando il tunnel più 3 adesso, eh. Sì, con quell'apparecchio. L'ho agganciato a quel al Midland. Al Midland? Sì, come va? E volevo c'è proprio in macchina lì la radio, non messa qua perché le volevo abbassare il watt. Prova a alzare il volume. Che cosa? Del TAM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Già va bene, mettili un po' di eco. Cambio. Eco. Però quello non è un eco colto, no, non è come l'eco colto, è un eco strano. È un eco a forma di eco. Di quelli là presso. Chi c'è un eco? Attento Gianni, ascolti questa piccola modulazione. Brecco. Ecco. A voi. Franco California. Ma dai, aspetta. Gianni. Attenzione, mi sa che io vado, dai, che devo portare giù il cane. Ero convinto di dover andare lì, e invece è domani. Ma può darsi che ci sia qualcosa anche oggi. C'è il circolo, quello di Vipunti, magari fa qualche cosa. Gava, dai, ci sentiamo. Ciao. Stavi bene, e buona. E buon fine settimana. Ciao, già, dai, buon cuore tipo tutto. Ce la riascoltare il prossimo, anche io chiudo, dai, alle prossimine, ciao anche a eventuali SWL che sono in ascolto, per me quelli, ciao. Ciao, Fra.